Vacanza di lago. Capitolo dodicesimo. Al loro arrivo, il Luna Park brillava di luci calde e invitanti. I baracconi assemblati da ogni lato sembravano caramelle alla frutta variopinte che attiravano i clienti con musiche suggestive e americane, annunci sensazionali, odori di zuccheri caldi, torroni bianchi. Risate violente di giovani comitive, che passeggiavano con una lentezza insolita, sognante, sciogliendosi e poi ricompattandosi subito, come increspature bianche di marosi sulle scogliere normanne. Quell'atmosfera sembrava abbastanza confortante per la giovane Martine e ancora di più per i tre ragazzi, che adesso cercavano spazi ampi e adeguati per i loro scalpitii. Per i loro eventuali agganci di faune femminili rare e sconosciute, ai loro territori metodici da allievi corsisti, incarcerati dall'ossessione del perfezionamento stagionale e con pochi contatti umani. «Avete mangiato tutti?» disse Pierre, che intanto camminava avanti, guardandosi intorno in più direzioni. «Noi solo qualcosa di freddo, ma un crostino con qualche birra non ci dispiacerebbe. Dovrebbe esserci un'ottima birreria qui dentro, non è vero, Pierre?» rispose Alex. Erano tutti molto informati. «Stavo andando giusto lì», gli disse Pierre. Intanto proseguiva, incuriosito dalla folla e dalla confusione della serata, che adesso sembrava rivitalizzarlo fuori misura. «E tu, Martin, te la berresti qualcosa con noi?» «Per me va bene. Ma comunque non preoccupatevi. Io mi adeguo a tutto.» Per raggiungere l'unico pub del parco giochi, i ragazzi avrebbero dovuto attraversare buona parte della zona centrale, che era anche quella più affollata, quella zona del parco, dove si concentravano anche gli altri locali, coincideva con altri due ingressi paralleli e laterali e con le uscite di un nuovo parcheggio a pagamento. Pierre camminava avanti con Alex. Bruno rimase indietro con Martin. Quella serata la folla era inverosimile. Sembrava si festeggiasse qualcosa di importante, per quanta allegria si riversasse tra le voci e tra i sorrisi dei ragazzi e delle intere famiglie che passeggiavano sorridenti nei viali accesi di luminarie e di malinconie. «Guarda, c'è Antoine! Quello di Novara, lo ricordate? Quello della classe di clavicembalo! Non l'ha visto, Pierre!» Era Bruno che urlava all'improvviso, indicando un gruppetto esiguo di ragazzi che affiancavano una panchina a pochissimi metri da loro. «Ma dove? Non lo riesco a vedere! Guarda, è alla tua destra! Girati ancora un po'!» «Hai ragione, mi sa che è proprio lui, ma adesso lo raggiungiamo un attimo!» «Ti accompagno», gli disse Alex. Bruno era ancora indeciso sul da farsi. Si voltò verso Martin, quasi come per chiedere il permesso di poter andare un momento con loro, pensando forse che Martin non avesse voglia di accostarsi anche lei. Martin si allontanò con una grande lentezza trasognata, in ogni suo movimento. Ogni tanto si voltava verso il nuovo gruppo di giovani allievi dei corsi, che Pierre intanto aveva appena accostato e con cui si intratteneva a parlare. Sembrava che vi fossero anche delle ragazze, che ridevano insieme ad Antoine. Pierre intanto salutava tutti e sorrideva in modo uguale a ciascuno di loro, in un fare artificioso, meccanico, per ogni nuova presentazione, schioccando baci sonori e salivosi per ogni guancia gli si accostasse. La folla che intanto aumentava ancora, a dismisura, ormai non c'era più un posto libero dove sedersi. Martin pensò di ritornare indietro, per poi raggiungerli dall'altra parte del vialone principale del parco. Non li aveva nemmeno avvertiti. Nei pressi della biglietteria quasi non si respirava per l'assemblarsi affannato delle persone in fila per la ruota panoramica. Qualcuno spingeva e cercava di farsi più avanti in ogni modo per risparmiare tempo. Qualcun altro resisteva. Vi era una calca soffocante. Per un po' Martin rimase smarrita. Poi incrociò con lo sguardo una piccola stradina laterale, cinta da siepi illuminate e ben curate, distribuite simmetricamente lungo i due bordi. Era sicura che quella piccola traversa l'avrebbe riportata allo stesso punto di prima, facendo il giro più largo per sopra, almeno per logica di orientamento. Decise di percorrere lo stesso. Camminava con indolenza Martin, con indolenza nel passo e nel respiro e nello sguardo, rigato dall'alternarsi veloce delle illuminazioni, dimenticandosi dei suoi ultimi giorni così strani e difficili, trascorsi al lago. Aveva negli occhi la penombra di quel piccolo tratto più isolato, intriso dell'odore dell'erba fresca, i suoni gioiosi e tintinnanti delle attrazioni lontane, che le scoppiavano dentro gli occhi come bengala di fine anno, ma senza accecarla. Si fermò a respirare e si guardò le mani. La luna sembrava sprofondare nella calma limpida e velata del suo bianco intatto, naturale, e quella sera conservava nei riflessi una luce diversa, meno accesa e aggressiva del solito. Alzò la testa e l'avvertì come una presenza viva, pulsante di uno strano conforto intimo e fiabesco, che forse non aveva mai osservato né avvertito con tanta intensità. Ad un tratto le urla sfrenate di un gruppo di ragazzi, che avevano raggiunto l'apice della ruota panoramica, Martin girò la testa, l'alzò quasi spaventata da quell'incanto improvviso di voci nel vuoto notturno del parco, di quell'altezza. Le sembrò che si stessero schiantando contro una parte di luna per quanto andassero su e le fossero vicine. Ritornò indietro, cercando di sgranchirsi a fatica le caviglie pesanti e puntando ancora con la prospettiva. Adesso si sentiva rigida e stranamente contratta nelle articolazioni, nonostante avesse camminato così poco. Raggiunta di nuovo la biglietteria, intravide soltanto Alex, che sembrava aspettarla con una certa febbrile impazienza, che era ben percepibile dall'espressione del viso e dal movimento incessante e nervoso di un piede che batteva mentre si guardava intorno, spazientito nella sua attesa. «Ah, eccoti qui finalmente!» correndo l'incontro con un bel sorriso, non appena la vide arrivare. «Sei qui da molto?» «Ma è solo che noi ci saremmo uniti all'altro gruppo. Volevo sapere che cosa ne pensavi. Antoine ha insistito così tanto, e allora Pierre mi ha chiesto di raggiungerti per chiederti se ti andava come soluzione per la serata. Lo dice per non rimanere da soli, poi almeno a prima vista sembrerebbero simpatici. Anche se io non li conosco proprio tutti. Ne saremo un bel po'. Dovrebbe essere divertente, non credi? Per me, non lo so. Io poi non li conosco. Comunque va anche bene, non preoccupatevi per me. Se così allora raggiungiamoli, avanti. Stanno andando tutti già verso il pub. È una scarpa tracciata, Alex. No, hai ragione, Martin. Aspetta che me la riattacco. Alex si abbassò per allacciarsi le scarpe. In quell'attimo esatto, Martini vide a meno di 2 metri di distanza il volto del nonno Alfio, con il viso stravolto, che avanzava barcollante e irriconoscibile verso di lei. «La nonna sta male. Devi correre, Martina. Meno male che t'ho trovata, l'hanno appena ricoverata. Devi venire a casa. Devi venire a casa subito. Che cosa le è successo?» urlò Martina, spaventata. «Fammi capire, nonno. Ma stava così bene stasera. Com'è possibile? Adesso non posso spiegarti. Andiamo, che ho lasciato la macchina aperta con le 4 frecce. Ringrazio gli amici e scappiamo, avanti. Allora me li saluti tutti, che non ho più tempo. Lo direi tu a Pierre dell'imprevisto, che gli farò sapere qualcosa di più preciso domani, va bene? Posso essere di aiuto? Se vuoi chiamo Pierre. Ragazzo, sarebbe inutile adesso. Adesso dobbiamo solo scappare. Io ho bisogno di Martini perché non ho più tempo, capisci? Perdonami. Andiamo, ragazza. Alfio intanto cominciò a piangere, agitato come un bambino, cercando un fazzoletto dalla tasca gonfia di carte e di chiavi sparse. Poi si avviò curvo e agitato verso l'ingresso del parco più vicino. Martina lo seguiva, alzando appena un braccio verso Alex, che la vide allontanarsi di spalle, rimanendo fermo a guardarli, fino a quando non svanissero del tutto dalla sua visuale. Alfio guidava a scatti, non riusciva a parlare e aveva anche dimenticato le 4 frecce accese, che lampeggiavano ancora durante la discesa verso i piccoli borghi adiacenti. Nonno, ha lasciato le frecce accese. Alfio non ascoltava quello che le diceva Martin. Guidava con gli occhi spenti e immobili, senza parlare. Cosa è successo alla nonna? Me lo vuoi dire allora? Eravamo andati a letto, come nostro solito. Teresa era stanca, ma ha voluto prendere comunque il suo libro e leggere. Ha cominciato a leggere, come al solito. Io ero ancora in piedi, a bere un goccio di amarognac alla finestra. Quella sera sembrava così serena, eravate andati tutti via da poco. Intanto pensavo alla tua prossima partenza, all'arrivo di mio figlio. E ad ogni sorso un ricordo di te, Martin, della tua vita così difficile. Ogni sorso un tuo sorriso perduto, una tua carezza dentro la gola. No, no, attento alle curve, spegni le quattro frecce, ti prego. Hai ragione, Martin. Scusami, ma sono ancora stravolto. Allora, adesso continua. Cerca di non distrarti, ma continua a raccontare, ti prego. Quando sono rientrato, l'ho vista strana, diversa dalle altre sere. Aveva le mani alle tempie, gli occhi chiusi, serrati, stretti. Poi mi ha detto che aveva ingoiato degli aghi a cena. Che c'erano degli aghi dentro al cibo e che adesso la stavano bucando tutta. Stavano camminando dalla pancia fino al suo cervello, come se si muovessero da soli, senza più controllo. Ma cosa diavolo mi stai dicendo? Ma com'è possibile una cosa del genere, nonno? Poi ho cercato di calmarla, ma invece ha cominciato a inveirmi contro e a quel punto ho aperto la bocca, sperando che così la credessi. In quel momento non so come spiegartelo e non riuscivo a credere ai miei occhi. Aveva davvero in bocca un'infinità di aghi di tutti i tipi, di tutte le dimensioni, che rovesciava a fiumi sulle lenzuola, come fossero davvero avanzi di cibo. Li ho visti con i miei occhi, devi credermi, Martin. Soffiava, poi cominciava a ridere. Allo stesso tempo sembrava prendere gusto e poi spaventarmi. E quell'orrore che non aveva più fine, sembrava infinito, e non aveva nemmeno più tempo, ed entrava nella mia vita come un chiodo, a rallentarsi nelle fasi più taglienti. Ho cercato di aprire la bocca e di scuoterla. E adesso guarda le mie mani, Martin. Osserva cosa è successo alle mie mani. E pensa soprattutto anche alle tue enormi responsabilità per tutta questa storia. Perché da quando sei arrivata tu che ci stiamo ammalando tutti. Ed è per questo che ci porterai tutti sulla coscienza, uno per uno, dopo una vita sacrificata per vederti sorridere. E poi, sei proprio sicuro di non saperne niente di tutta questa storia? Di non averci messo niente nel cibo di tua nonna ieri pomeriggio? Avanti, Martin. Adesso dovrei perquisirti tutta. Mi dispiace, ma sono costretto. Adesso accosto. Devi comprendermi, tesoro. Alfio ho preso un braccio di Martin e la scosse con forza, facendola sobbalzare tutta, lasciando lo sterzo in una sola mano. La macchina cominciò a slittare, a sbanzare, a sobbalzare come un vecchio trattore. Martin non aveva più il fiato in gola, aprì gli occhi, terrorizzata, ma stavolta era piena a strattonarla. Con un sorriso beffardo e stupido disegnato sulla bocca, con una sigaretta accesa in una mano. Ancora una volta aveva immaginato, Martin. Ti addormenti dovunque trovi un angolo, Colombina. Come devo fare con te? Me lo spieghi. Era Pierre. Ma stavolta Martin non si sentì per niente risollevata. Era ancora più angosciata dalla veridicità di tutta la sequenza onirica ed emotiva che le aveva percorsa la mente, come il battito notturno e violento di uno stormo spaventato. Adesso non si sentiva più sola, né libera, ma vittima di una pressione feroce che le aveva occupato la testa e le ronzava dentro, senza lasciare più spazi vitali. Scacciò Pier con il gesto secco di un braccio, si strinse il volto nelle due mani, a testa bassa e con i capelli diversi tutti in avanti. Adesso era diventata come cieca. Si alzò le ginocchia sulla panchina e le inchiodò al mento, che le tremava ancora tutto per la sua grande paura. Rimase immobile, senza più muoversi, come pietrificata dai suoi pensieri sferzanti, ormai sovrani, sulla sua coscienza. Pier rimase impietrito, ebbe paura e si allontanò di scatto. Non riusciva a capire. Non l'aveva mai vista così. Le osservava le nocche livide, screpolate alla sommità. Sembrava che quel suo corpo così familiare adesso stesse mutando, seguendo direzioni e fisionomie lontane, imperscrutabile. Le percepiva addosso un odore dolciastro, pungente, sotto quella sua pelle grassa e sudaticcia. E adesso cominciava anche a disgustarlo per quanti acidi stesse versando fuori, così, all'improvviso. Poi Pier si fece coraggio e cercò di ravvicinarsi per tentare di calmarla. «Martin, posso sedermi qui vicino a te? Sono da solo. Non preoccuparti, che vorrei solo cercare di capire che cosa ti è successo». Al momento Martì sembrò non avere più reazioni, continuava a stringersi le ginocchia con tutte le dita, ben tese, come pervasa da brividi ghiacciati, così insoliti nel clima così dolce di quella sera. Ma non appena Pier fece per sedersi, la ragazza ebbe uno scatto e lo allontanò colpendo con il lato di un pozzo sotto al naso. Pier provò un dolore fortissimo e si portò le mani al viso, stringendosi la sommità del naso e nascondendosi il volto. Poi si girò di spalle, mentre Martino lo guardava ancora, con un dolore profondo e immutabile, dentro lo sguardo grigio, gelato. «Voglio rimanere sola! Ho detto sola, sola, sola, sola, sola! Sola! Avete capito?» Le urla di Martino si alternavano a risate isteriche, a gesti incontrollati, che Piero adesso riusciva a stento a identificare, attraverso quelle dita tremanti, che aveva ancora schiacciate tutte sugli occhi semichiusi. Martin cominciò poi a cantare il motivo della sonatina che aveva preparato per il suo esame. Poi la squarciava la notte come l'ululato triste e insaziabile di una lupa bianca e innamorata. Poi cominciò a pisciare, bagnandosi tutta davanti alle persone che passavano e si allontanavano subito, stomacate da quell'immagine così pietosa e sinistra. Pier era disperato, non sapeva più che fare. A quel punto decise anche lui di allontanarsi, fingendo di non conoscerla, e continuando a massaggiarsi il naso appena colpito. Alex lo raggiunse poco dopo, con il volto ombrato e sconvolto. Allora, dove diavolo eri finito? Possibile che devo rimettere sempre io insieme i pezzi del gruppo? Antonio sta aspettando per il tavolo, che cosa fate? Martini è andato di matto. Che cosa stai dicendo? Io non so più che cosa fare con questa qui. Vorrei anche chiamare qualcuno, ma così, come diavolo ce la portiamo a casa? Se combiniamo il casino in macchina, chi la tiene più? Ma che cosa devo dire agli altri? Stanno già occupando il tavolo. A questo punto lo raggiungo io. Tu intanto fingi di passare lì per caso, al limite di non conoscerla. Ma cerca in qualche modo di farti dare il numero di casa. Al limite puoi prenderle anche il telefono. Ma perché tu non lo hai il numero, Pier? Non a memoria. In fondo con Martin ci vediamo solo una volta all'anno e quando siamo in vacanza non ci siamo mai telefonati. Quando siamo qui al lago e anche durante l'anno, non ci si sente mai al telefono. Chiedilo a tu allora, no? Ascolta, io vorrei stare a tutti i costi fuori da questo casino. Le persone che vanno di matto in questo modo portano solo guai e poi mi hai anche colpito sotto al naso. Se lo rifacessi potrei anche aprire la testa davanti a tutti. Tu credi che non ne sia capace? E allora è meglio che lei stia lontano. Intanto guarda se c'è il segno qua sotto, guardami bene. Io non vedo niente e poi. Per quello che dici, credimi, mi fai più paura tu, Pier. Accidenti, guarda bene, ti ho detto che mi fa un male cane. Non è possibile che non ci sia niente. Forse c'è appena un po' di rossore, ma non mi sembra neanche così evidente. Allora si farà così, capito? Raggiungimi e fammi sapere qualcosa, anzi, fammi uno squillo con il telefono. Io ho bisogno assolutamente di bere qualcosa. Comunque, sei un vero amico, Alex. Se farai quello che ti dico. Lascia perdere, Pier. La ruota panoramica si alzava di nuovo, portando con sé grida e movimenti agitati e radiosi di braccia nude e capelli sciolti. Martin alzò la testa e si fermò ad ascoltare. Alex la trovò più tranquilla, appoggiata allo schienale della panchina. Due signori che le erano vicine lo fissarono non appena lo videro arrivare. Martin lo riconobbe subito da lontano e poi gli lanciò un grande sorriso, chiamandolo per nome. Alex! È un gran bel nome, Alex, sai? Se un giorno avessi un figlio lo chiamerò così, Alex. Come te. Mica lo posso rubare un figlio. I figli non si rubano. Non è vero, tesoro? Le signore si fecero ancora un po' più indietro, avendo ormai compreso che due ragazze si conoscessero, che qualcosa nella testa della ragazza non andava. Alex si avvicinava con circospezione, guardandosi intorno. Allora, avete fatto qualche gioco pericoloso? A me piacciono tanto i giochi rischiosi, anche la ruota. Mi porti sulla ruota, Alex? Me lo avevi promesso. Mi ci porti dopo sulla ruota panoramica, al prossimo giro? D'accordo, amore mio. Alex intanto guardava le due signore, che gli sorrisero con una dolcezza stanca e preoccupata negli occhi, e facendogli segno con il capo che fosse tutto a posto e che potevano anche andare. Per tranquillizzarle, cercando poi di non farsi sentire da Martin, Alex si accostò alla più anziana, rassicurante delle due. L'ho conosciuta soltanto stasera. Si è sentita male all'improvviso. Penso che sia la prima volta che le succede. La conosco così poco. Ma eravate da soli. Ed ci siamo persi e stavamo cercando di... Alex, è così che ti chiami, vero? Gli disse la signora più giovane. Alex a quel punto si guardò intorno, osservando con la coda dell'occhio Martin che si infilava le mani sotto la gonna. No, il mio nome non è Alex. Comunque questo non ha importanza, negando. Bisognerebbe avvertire la famiglia. O forse sarebbe meglio chiamare un medico. Scusate se mi intrometto, ma... voi almeno sapete dove abita la ragazza. Adesso chiamerò un amico, sperando che si faccia vivo. Non preoccupatevi, signore. Allora noi possiamo andare. Lei è sicuro che rimarrà qui con lei e che non ha bisogno del nostro aiuto? Noi abbiamo mia figlia con nostro nipote che ci attendono all'uscita. Non vorremmo che si preoccupasse, non vedendoci arrivare, capisce? Siete state fin troppo gentili. Adesso me la vedo io. Rimarrò qui con lei e poi le porteremo in qualche modo a casa. Ci sono altre persone. Una delle due signore, andando via, prese una guancia di Martin tra le dita. Martin, a quel gesto così delicato, alzò la testa e chiuse gli occhi. Buonanotte, tesoro mio, e buona fortuna, le disse, con una voce quasi rotta dal pianto. Martina le sorrise ancora e la seguì con gli occhi lucidi per tutto il percorso lungo quel viale centrale di persone e di sorrisi, ancora perduti nella folla. Intanto Alex era in preda a una grande agitazione, cercò di rintracciare Pierre sul telefono in modo da non perdere ad occhio. Martino stava osservando ancora meglio. Si aggiustava i capelli umidi dietro le orecchie, ricomponendosi la gonna sopra un ginocchio piegato. «Pronto, mi senti? Dannazione, sono Alex. Mi senti, Pierre?» La linea era disturbata. Alex tentò svariate volte, ma cadeva in continuazione. «Mi aspetteresti qui, Martin, solo per pochi minuti. Il tempo di raggiungere Pierre. Il fatto è che non riesco a parlargli al telefono. Sarà un problema di campo, probabilmente. Mi prometti di non muoverti?» «Ma tu cosa vuoi da me? A stento mi conosci e già ti vuoi fare carico dei miei problemi. Ma vai pure, che io sto benissimo. Pensi forse di rimediarti una scopata facendo il samaritano? Dimmelo subito se è così. Almeno perdiamo meno tempo. Senti, io voglio far finta di non aver sentito niente. Vuoi accompagnarmi fino all'ingresso del pub? Entro, lo chiamo, si prende la macchina e si ritorna a casa. Fare una bella dormita. Si ritorna tutti. Non lo voglio più il violino, capisci? Non lo voglio nemmeno vedere quel violino. A questo punto preferisco che non venga nemmeno a portarmelo. Se trova a farmi la sua solita lagna e poi la nonna piena di aghi nella bocca, quelli da materassaio che si incurvano alla punta. Ne hai visti come sono fatti? Ne ha sputati nel letto e ne ha ancora un mucchio che adesso le stanno salendo alla testa ed è per questo che non posso più suonarlo quel dannato strumento, capisci? Devo aiutare la nonna a liberarsi, a non pungersi il cuore. Ma lui non vuole capire e allora si precipiterà a casa con i pantaloni rossi e la camicia hawaiana, come suo solito, per fare il simpatico alla gente del lago, oscurandomi con i suoi sorrisi. Il potere della sua simpatia, così accattivante, con cui contratta il mondo intero e riesce a trascinarlo sempre dalla sua parte. Mio padre, che appena mi vede mi imprigiona nei suoi occhi cattivi e mi denuncia al suo tribunale inquisitorio, che non vuole scusanti su nulla, vuole che diventi una regina, mentre non sono che una serva, una larva di mosca carnaria. Poi guardami bene, ho addirittura i peli sulle gambe, questa scarpetta ballerina è tutta sformata, che sembra uscita dalla bocca di un mastino. Non ho più speranza di farlo felice, ma lui insisterà ancora, per tutti i giorni della sua vita, a cercare quel vibrato dalle mie dita che non sento di poter mai più ottenere. E allora si presenterà con lo strumento nuovo, ancora odoroso e fresco di acero, e me lo sbatterà sotto al mento come un chiodo, e poi mi chiederà strappate sulle doppie corde, nitidezza di suono, di fraseggio, intonazione, spolvero, spolvero, ancora con questo dannato spolvero, ma che non so nemmeno cosa sia. Martino riprendeva ad agitarsi, stava quasi per piangere, poi si fermò e si accucciò sulla panchina. Le persone di passaggio non ci facevano quasi più caso, in alcuni momenti sembrava una ragazza un po' triste e romantica, addormentata sotto la luna. Alex non riuscì a capire niente di quel suo discorso, pur tentando di interpretarne a fatica qualche frase spezzata. Approfittò di quel momento di relativa stasi per raggiungere Pierre al locale, non prima di aver effettuato un ultimo tentativo con il telefono, andato a vuoto. Martina adesso aveva gli occhi chiusi. Alex si allontanò, lanciando ogni tanto uno sguardo alla panchina sotto il lampione giallo, dove ormai si era distesa, rischiando in quel modo di scontrarsi con la folla che gli passava davanti, indisturbata, egualmente distratta. Si avviò di corsa verso il pub, tentando ancora di ricomporre lo stesso numero durante il suo percorso così agitato, ostinandosi. Il pub ormai era a pochi metri, ma per la folla Alex fu costretto a effettuare una deviazione e raggiungerlo poi di spalle, aumentando di poco il tragitto, ma trovandolo quasi del tutto sgombro. Il tavolo era situato giusto in fondo al locale. Quel con il gruppo di amici di Antoine era ben visibile, per quelle sedie scomposte che erano state aggiunte per gli ultimi ospiti improvvisati all'angolo estremo del tavolo. Pierre era seduto sulla destra con un bicchiere di cognac colmo per metà e una mano schiacciata sulla fronte. Accidenti, io che ti sto dannando a chiamarti da un casino di tempo, ma ti rendi conto di... Pierre si alzò di scatto e lo afferrò con violenza per un bavero. Impicciati poco di questa storia. Io ho ben altri problemi in questo momento. Quella lì è matta. Lo vuoi capire o no? Non penserai mica che adesso sia anche colpa mia che si sia ridotta così. Almeno lo spero. Quando ce ne andremo da qui, la scaricherò a casa. Dopo lo sfogo, Piero lo lasciò andare, riprese a sedersi, accoccandosi il bicchiere alle labbra come se non fosse accaduto nulla. Alex guardò Bruno negli occhi, mentre i ragazzi al tavolo, persi nella confusione dei loro discorsi e della musica alta, sembravano non accorgersi minimamente di quello che stava accadendo. Alex, ma dove eri finito? Guarda che ti abbiamo conservato il posto. Ti ringrazio, Antoine, ma devo risolvere un piccolo problema. Vi raggiungerò dopo, forse. Bruno fissò Alex, ma poi ritrasse subito lo sguardo, come intimorito. Le chiavi, Pier, disse Alex, almeno quelle. La riaccompagnerò io a casa e poi ritorno a prenderle. Nemmeno per sogno. Le chiavi della macchina non le presto a nessuno, questo sia ben chiaro. Pier, mi auguro che tu ti stia rendendo conto di quello che fai, gli disse Alex, adesso a bassa voce, avvicinandosi al suo orecchio per evitare di farsi sentire. Quella ragazza sta malissimo. Noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa, dobbiamo che combini qualche pasticcio. Altrimenti nei guai ci troveremo noi e soprattutto tu. Che sei quello che la conosci meglio. Te ne rendi conto oppure pensi che non sei tu il responsabile? Io non la conosco per niente, a quella svitata, diceva. Sto qui a bere con i miei amici e poi non è una bambina. Cosa diavolo vuole, creatrizia o quel cervello? Con tutti i pensieri che mi ritrovo? Andiamo, cercare di non dimenticare che sono anche sotto concorso. Non credete mica che stia qui in vacanza. E adesso aria, per favore, che sono già stanco di queste assurdità. Fai ciò che ti pare, ma tienimi fuori. Le chiavi, Pier. Ci metterò poco. Se me le dai, vedrai che si aggiusta tutto. Non fare il bambino adesso. Pier prese le chiavi dalla macchina e le sbatté con violenza sul tavolo. Qualcuno allora si girò, curioso per quel rumore metallico improvviso, finanche dal tavolo accanto. Alex si guardò intorno con aria timida ma soddisfatta e le strinse forte nel pugno. Grazie. Ci si vede poi. Al massimo tra un'ora. Vedrò di avvertirti. Non appena arrivo, mi raccomando. Cercate di non morire da qui. Piero non gli rispose nemmeno, pensando di avergli già concesso una straordinaria opportunità. Poi, appena Alex era già di spalle verso l'uscita del locale, gli urlò: almeno non sai abbassare il sediolino. Guarda che Martina è parecchio esigente, capisci? Non vuoi capire allora? Alex si voltò, lanciandogli uno sguardo cupo di tristezza e di rabbia. Poi chiuse la porta del locale e scappò via. A gambe levate.